19:21 di venerdì 3 ottobre, riprendono il pendolo degli audio, difficili da ascoltare un po' perché sono nascosti in questa zona multimediale, ecco, dovuto allestire, e un po' anche perché la qualità della registrazione è sicuramente peggiorata. Devo usare come registratore digitale il Nokia 6310, che di sicuro non nasce per questo, campiona a 8000 Hz, che è veramente poco, un po' come le comunicazioni della torre di controllo di un aeroporto. Mi sa che bisogna accontentarsi. E oggi apprendo dai giornali, come si diceva una volta, che ci sono dei malcontenti nella destra di governo, nel senso che dalla base sale alto il grido, l'invito nei confronti del leader di Fini, l'invito a fare qualcosa di destra, ma francamente mi è difficile pensare ad un'azione di destra rispetto a quello che oggi è il centro, vale a dire il centro berlusconiano. Esiste una destra storica, esiste anche un centro storico, ma il centro berlusconiano non ha assolutamente niente a che vedere con la nozione mondiale, direi, di centro. Quindi l'unica cosa che mi viene in mente, che si potrebbe suggerire a Fini, di provare a trepiare le macine del mulino bianco, ecco. Poi un'altra cosa che mi viene in mente, rimanendo in ambito Alleanza Nazionale, è stata questa ribellione di Buontempo rispetto alla legge Gasparri. Buontempo è stato uno dei franchi tiratori che ha votato contro la pubblicità con i bambini. Anche Buontempo, che sembrava come personaggio un po' al di fuori dalle logiche mediatiche degli ultimi tempi, è diventato anche lui un freddo calcolatore, si posiziona come il nonno Ugo della destra italiana, e il nonno Ugo sicuramente nei confronti dei bambini non può avere un comportamento diverso rispetto a quello del franco tiratore che si oppone alla pubblicità pannoliniana, non mi viene una parola migliore. Poi sempre questo riferimento ai pannolini, ma i bambini, per la verità, mi sembra che in pubblicità appaiono ovunque tranne che nella pubblicità dei pannolini, dove hanno un ruolo funzionale, cioè quello di prestare una certa parte del corpo, ma al di là di quello